dal suddiaconato al sacerdozio, 1814-1815. Il suddiaconato. Attraverso l'umiliazione ed il dolore, lo scultore divino aveva sufficientemente modellato ed abbellito quell'anima. Era giunta l'ora della sua consacrazione. Don Vianney apprese con una riconoscenza infinita che il 2 luglio, festa della Visitazione di Maria, avrebbe ricevuto gli ordini minori e il suo diaconato insieme. L'autorità diocesana lo dispensava dagli intervalli canonici. «Che te deum» ad ecogli. Giovanni Maria tornò in seminario un mese prima dell'ordinazione per prepararsi nel ritiro e per ricevere le istruzioni necessarie sia sulle cerimonie del Gran Giorno sia sui poteri che gli sarebbero stati conferiti. Il mattino del 2 luglio il futuro suddiacono, rivestito del camice bianco, fece quindi il simbolico passo che lo separava per sempre dalla vita secolare e mondana. Quindi, toccando il calice vuoto che avrebbe contenuto il sangue di Cristo, sposò la castità. La cerimonia fu celebrata nella chiesa primaziale di San Giovanni. Marcellino Champagnat, il caro compagno di Verrier, aveva ricevuto il suddiaconato a Grenoble il 6 gennaio precedente dalle mani di Monsignor Simon, mentre Giovanni Claudio Colin, prima trattenuto da scrupoli, si trovava tra i nuovi ordinandi insieme con il Vianney. I loro giuramenti furono ricevuti da Monsignor Simon, venuto espressamente da Grenoble. «Ebbi allora la fortuna di trovarmi molto vicino a Don Vianney», ha raccontato Don Pietro Millon, parroco di Beni. «Dopo la cerimonia era usanza che ci si recasse in processione dalla primaziale al seminario. Fui colpito dall'entusiasmo col quale egli cantava il Benedictus, salmo di ringraziamento. La sua figura sembrava raggiante. Mosso da un presentimento, gli applicai il versetto. «E tu, puer, profeta altissimi vocaberis», pensai, «ha meno scienza di tanti altri, ma nel ministero farà grandi cose». La politica in seminario. Dato che era Don Balley a rispondere del suo protetto, questo gli fu affidato durante l'anno scolastico 1814-1815. Il maestro e l'alunno non ebbero che a felicitarsene, perché per il seminario di Sant'Ireneo quello fu un anno deplorevole. Il raccoglimento vi divenne quasi impossibile e senza raccoglimento non ci può essere né proficua applicazione né seria formazione. Se dobbiamo prestar fede a un contemporaneo, la notizia dell'abdicazione dell'imperatore era stata accolta a Lione con una frenesia che toccava il delirio. Pareva che si passasse dall'età del ferro all'età dell'oro, tanto celebrata dai poeti. Mentre Napoleone esiliato partiva per l'isola d'Elba, lo sfortunato Cardinal Fesch, degno di miglior sorte, passava da Nîmes a Montpellier, da Montpellier a Blois, da Blois a Bourges. Tornato a Lione per alcuni giorni, se ne allontanava il 27 aprile. L'odissea del prelato fuggitivo si concluse a Roma, dove il Papa lo accolse con una mansuetudine infinita. Il 14 aprile, alla notizia che Luigi XVIII era stato proclamato re di Francia e di Navarra, il capitolo di Lione, in assenza dell'arcivescovo e a sua insaputa, aveva prescritto di cantare un Te Deum nella metropolitana e nelle altre chiese della diocesi. Il Grobaud, segretario generale dell'arcivescovo e grande amico di Don Balley, trascinato dalla sua vecchia fede monarchica e dai suoi ricordi dell'emigrazione, si era mostrato più esaltato di tutti. I seminaristi l'avevano imitato. Tutte quelle giovani teste si erano montate fino a un punto inconcepibile. Nel viale dei Tigli a Sant'Ireneo per molto tempo si parlò più di politica che di teologia. Da Roma il cardinale seguitava ufficialmente a governare la diocesi, ma i suoi beni erano messi sotto sequestro e la sua autorità considerata come scaduta. Colpo di scena. Improvvisamente, all'inizio del marzo 1815, si apprende che l'imperatore scoronato era già approdato in Francia, nel Golfo di Juan. Rapido come il fulmine, il 10 fa un'entrata trionfale a Lione. Molti sacerdoti sono gettati in carcere a causa delle loro opinioni legittimiste. Il 26 maggio il cardinal Fesch, al suono di tutte le campane, ritornava nella sua buona città. Non vi rimase che 3 giorni. Il 29 maggio lasciava Lione per non più ritornarci. Il giorno prima di recarsi a Parigi fece visita agli alunni Saint-Irénée, ma cediamo la penna a un contemporaneo che nello stile pomposo di quell'epoca ci racconta i fatti. Gli erano giunte molte lagnanze sullo spirito ultrarealista che regnava in quella casa. La polizia ne era informata e voleva prendere misure severe. Essa aveva in mano prove che compromettevano l'esistenza dell'istituto. Molti seminaristi, dalla testa calda e dall'immaginazione esaltata, non calcolando la portata delle loro azioni, avevano dato il nome a una federazione legittimista che andava organizzandosi nelle montagne del Forêt. Tutti rifiutavano di cantare in cappella secondo la prescrizione che era stata data: il Domine salvum fac imperator Napoleonem. Il cardinale non era del parere di sacrificare per alcuni imprudenti una casa che gli era costata tante preoccupazioni e che gli era tanto necessaria. Che sarebbe divenuta la diocesi se la sorgente che alimenta il sacerdozio fosse stata interrotta? Accompagnato da Don Courbon e da Don Pochard, venne a tentare di portare parole di pace e di moderazione ai giovani teologi, che vivevano in un'atmosfera estranea alla loro vocazione. Ma quando quei giovani scorsero da lontano la veste rossa del prelato, indovinarono il motivo della sua visita. Alcuni fuggirono in camera come uno sciame spaventato, altri si appartarono e altri mormorarono sottovoce. Solo con molta fatica i vicari generali riuscirono a riunirne un piccolo numero e a calmarli. Monsignore, dopo aver rivolto loro alcune parole di prudenza e di saggezza, capì che non si poteva ragionare con quelle teste esaltate e si ritirò, disperando sempre più della causa di suo nipote. Mentre il prelato saliva sulla sua vettura, era una miserabile carrozza di piazza, poiché tutto risentiva delle ristrettezze dell'ora, uno di quei fanatici monarchici in sottana scrisse con il gesso bianco sull'esterno della carrozza il grido caro del 1814: «Viva il re!». Monsignore attraversò tutta la città con quella singolare scritta, molto strana per un principe della famiglia imperiale che riconosceva l'Aquila. Al cardinale, quando il 29 maggio prese la strada di Parigi, non parve ancora tutto compromesso. Ma la sera di Waterloo, 18 giugno, l'Aquila cadeva ferita a morte. La notizia del disastro sorprese Monsignor Fesch nella capitale e allora se ne fuggì a Roma. Si sarebbe spento piamente 25 anni più tardi nella città eterna il 13 maggio 1839. Il diaconato. Non tutto il male viene per nuocere. Così il dolce Giovanni Maria Vianney non si immischiò in tali agitazioni. Quanto al saggio Don Balley, al corrente delle cose, dovette benedire la provvidenza per il disastroso esame dell'anno precedente, che aveva rimandato alla canonica di Écouly l'ultimo e il più meritevole degli alunni di Saint-Irénée. Verso la fine di marzo del 1815, Don Vianney, ammesso a ricevere il diaconato, rientrò in seminario. Senza immischiarsi in nessuna discussione, si costruì una solitudine interiore dalla quale non uscì neppure un istante. Il 23 giugno, vigilia della sua festa, fu ordinato diacono nella primaziale di San Giovanni, a Lione, da Monsignor Simon, vescovo di Grenoble, e lo spirito di fortezza discendeva fino nelle ultime fibre della sua anima già tanto robusta. Quel mattino, durante le litanie dei santi, si postrarono accanto a lui Giovanni Claudio Colen, il futuro fondatore dei Maristi, e Marcellino Champagnat, il futuro fondatore dei Piccoli Fratelli di Maria. Tutti e due dovevano ritornare a Saint-Irénée per l'anno preparatorio al sacerdozio. L'esame canonico per il sacerdozio. Per un favore insperato, dovuto senza dubbio ai passi del suo affezionato maestro, ma anche alla fama delle sue virtù subito dopo il diaconato, si trattò di presentare Don Vianney per l'ordinazione sacerdotale. Per la seconda volta subì l'esame canonico in presenza del vicario generale Bochard nella canonica di Écouly, il quale con piacere constatò che dopo un anno il nostro teologo aveva fatto reali progressi. Il saggio esaminatore interrogò per più di un'ora Vianney sui punti più difficili della teologia morale. fu soddisfatto delle sue risposte ed anche meravigliato di tanta chiarezza e precisione. Fu deciso che dopo un ritiro di alcuni giorni il novello diacono si sarebbe recato a Grenoble per esservi ordinato sacerdote. I suoi compagni di studi, Don Pansut e Don Bezacier, Don Colin e Don Champagnat, non dovevano essere ordinati sacerdoti che il 22 luglio dell'anno seguente. Il mercoledì 9 agosto, Don Vianney si presentò agli uffici dell'arcivescovato dove Don Courbon gli consegnò le lettere testimoniali, le quali dicevano che il vescovo di Grenoble poteva ordinarlo per la diocesi di Lione, con la condizione, tuttavia, che il novello sacerdote avrebbe dovuto ricevere la facoltà di confessare solo più tardi, a beneplacito dell'ordinario. I disegni degli uomini non sono quelli di Dio. Il timido diacono, che veniva inviato così a Grenoble, doveva passare tre quarti della sua vita rinchiuso in un confessionale. La Chiesa, concluse il Courbon scrivendo la sua firma, non ha bisogno soltanto di preti sapienti, ma anche e specialmente di preti pii. Sotto il sole d'agosto, Don Vianney fece il viaggio a piedi, da solo, portando con sé un piccolo involto in cui c'erano alcune provvigioni e un camice per la prima messa. 100 chilometri separano Lione da Grenoble. L'aspirante al sacerdozio, che si sentiva le ali ai piedi, poiché finalmente stava per realizzarsi il suo grande sogno, percorse allegramente quella lunga distanza, ma non senza pericoli. Purtroppo la Francia era di nuovo invasa e le strade del Delfinato erano disturbate da nemici in armi. Che andava a fare su strade così poco sicure quel magro prete con quel minuscolo bagaglio? Non si trattava forse di qualche spia al servizio della Francia? Gli austriaci del corpo di Bubna gli lanciarono invettive nella loro lingua gutturale. Un giorno si ricorderà di quello sconosciuto idioma per confrontarlo con un altro, se possibile ancor più barbaro. Parecchie volte durante il viaggio fu fermato da soldati che lo minacciarono con le baionette. La consacrazione sacerdotale. Finalmente, il sabato 12 agosto, l'ordinando di Lione era ricevuto nel seminario maggiore di Grenoble, in via del Vieux Temple. L'indomani, di buon'ora, tredicesima domenica dopo Pentecoste, fu condotto nella cappella che prima della rivoluzione era stata la chiesa dei Minimi. Arrivò Monsignor Simon. Era un prelato profondamente pio e dal cuore largo e condiscendente. Gli si fece presente che lo si era scomodato per ben poca cosa, una sola ordinazione e per giunta ad un forestiero. Il vecchio vescovo contemplò un istante quel diacono dal volto ascetico che non era accompagnato né da parenti né da amici. «Non è troppo scomodo», replicò con un sorriso, «ordinare un buon prete». Le impressioni del 13 agosto 1815. Don Vianney, indubbiamente incapace di esprimerli, non ha rivelato le emozioni di quel mattino celeste, ma più tardi, nei suoi catechismi, quando parlerà della sublime dignità del sacerdozio, e lo farà spesso, rivivrà le impressioni intraducibili di quel 13 agosto 1815. «Oh, che cosa grande è il sacerdozio!» griderà. «Il sacerdozio non lo si capirà bene che in cielo. Se lo si comprendesse sulla terra, si morrebbe, non di spavento, ma di amore». Finalmente, a 29 anni e 3 mesi di età, dopo tante incertezze, dopo tanti insuccessi, dopo tante lacrime, Giovanni Maria Vianney vedeva aprirsi dinanzi a sé il santuario. Poteva salire l'altare del Signore. Dal momento della sua ordinazione si considerò completamente, anima e corpo, come un vaso sacro, destinato unicamente al mistero divino. Nella sua fanciullezza, quando ancora viveva vicino a sua madre, aveva sospirato: «Se fossi prete, vorrei conquistare molte anime». Le anime lo aspettavano. Vicario ad Écouly, 1815-1818. Grande gioia ad Écouly, d'Ardigli, Noè. Don Vianney celebrò la sua prima messa il lunedì 14 agosto, vigilia dell'Assunzione, nella stessa cappella del seminario maggiore dove la vigilia aveva ricevuto l'unzione sacerdotale. Contemporaneamente a due altari vicini celebravano messa anche due cappellani dell'esercito austriaco. È fuor di dubbio che non riprese subito la strada di Écully, ma restò a Grenoble per la solennità dell'assunta. La sua delicatezza di coscienza e la sua devozione, tanto tenera verso la Vergine, non gli avrebbero permesso di viaggiare in quel giorno. Tutto porta a credere che sia ripartito il giorno 16 dal seminario, dopo avervi celebrato tre volte la messa. Nel ritorno incontrò le stesse noie che nell'andata. Finalmente raggiunse Écully, dove il suo vecchio maestro l'attendeva con impazienza. Gli era riservata una sorpresa assai gradita. Don Balley, dopo essergli caduto ai ginocchi e aver da lui ricevuto la benedizione, gli diede la bella notizia. I vicari generali si erano degnati di concedere un vicario alla parrocchia di Écully e il sacerdote designato non era altri che Giovanni Maria Vianney. In tal modo il figlio di adozione sarebbe rimasto accanto al padre, gli sarebbe stato d'aiuto nel molto lavoro e sarebbe toccato a lui chiudergli gli occhi. Ci fu grande gioia anche nella casa di Dardigli. Fu dimenticato tutto un passato di angoscia quando il novello sacerdote ricomparve tra i suoi. O se ci fosse stata anche la mamma, Giovanni Maria si recò a pregare a lungo sulla cara tomba. Una lettera annunciò a Noè e a Robin l'ordinazione sacerdotale di Jérôme Vincent. L'anno precedente, dopo il suo diaconato, Don Vianney aveva scritto al venerando Don Jacquet per offrirsi a lui come eventuale vicario. Come onorario non gli chiedeva che il mantenimento. Amava talmente Noè, diceva, che non se ne poteva scordare. Quale felicità per la madre Fayot quando seppe che il suo figliolo adottivo aveva realizzato il suo sogno. Prima sarebbe rimasto ad Écully, è vero, ma un giorno sarebbe anch'egli diventato parroco e allora, chissà, alla cascina di Robins si decise di andare quanto prima a riverire nella canonica di Don Balley il santo e amabile vicario. Il primo penitente di Don Vianney. I parrocchiani di Écully condivisero la letizia del loro pastore. Il Vianney, dicevano tra di loro, ci è stato di esempio quando ancora era studente tra di noi. Che sarà ora che è prete? Infatti, gli confidarono molto presto i loro segreti. Tuttavia, agli inizi, dovettero limitarsi a chiedergli consiglio al di fuori del confessionale, perché il Vianney avrebbe ricevuto la facoltà necessaria per confessare solo parecchi mesi dopo la sua nomina a vicario. Abbiamo visto che Monsignor Courbon aveva deciso così. Ora, il primo penitente che cadde ai suoi piedi fu il suo confessore stesso, Don Balley in persona. Poiché cercava un nuovo direttore spirituale, l'austero e saggio pastore di Écully, non ne trovò uno più adatto a ricevere le sue confidenze che il pastorello d'un tempo, troppo a lungo ritenuto un incapace. Il degno vecchio aveva constatato e seguito l'incessante lavoro della grazia in quell'anima prediletta. Fece presente al Courbon che era tempo di sciogliere i poteri del suo giovane vicario. Immediatamente il vicario generale accolse una richiesta tanto giustificata. Gli inizi del suo ministero. Il primo atto di ministero di Don Vianney porta la data del 27 agosto 1815 e si tratta di un battesimo. Quando si seppe che era stato approvato dai signori dell'arcivescovado, il suo confessionale fu assediato e i malati chiesero quasi soltanto di lui. Ciò gli prendeva molto tempo e gli capitava di trascurare i pasti. Un po' più tardi, quella negligenza sarebbe divenuta un'abitudine. Ma le sue fatiche non erano senza frutto e senza consolazione, perché un gran numero di persone, che fino allora non erano state per niente edificanti in parrocchia, mutarono condotta quando si furono aperte a lui. Preparava e spiegava accuratamente le lezioni del catechismo facendosi piccolo coi piccoli. Prendeva a parte i meno dotati nella sua stanza e ricordandosi ciò che altri avevano fatto per lui durante la rivoluzione, li istruiva con una pazienza instancabile. A Écully sul pulpito era breve ma chiaro. Iniziava un ministero che gli sarebbe costato grandi sforzi e nel quale avrebbe ottenuto successi meravigliosi. «Non predicava ancora bene, a mio avviso», dice sua sorella Margherita, che era venuta da Dardigli per ascoltarlo. Tuttavia, quando toccava a lui predicare, la chiesa si riempiva. Egli non temeva di dire verità forti e di flagellare certi vizi. E quegli non era proprio un'oasi di perfezione. La rivoluzione vi aveva lasciato molte miserie e la vicinanza con la grande città non le diminuiva. La gente amava il piacere e ballava ad ogni occasione. Nel paese dove fui vicario, doveva dire più tardi il Vianney facendo catechismo, un giovane che doveva far da padrino e che aveva perciò invitato un suonatore per ballare, il giorno dopo fu schiacciato da una trave. Non ebbe neppure un momento per riflettere. Il suonatore venne, ma quando giunse le campane suonavano per i funerali di quel disgraziato. Se predicava l'onestà dei costumi, la perfezione della vita cristiana ne dava per primo l'esempio. Quel sacerdote di 30 anni era già di un ammirabile riserbo, molto semplice e buono, ma lontano da ogni familiarità. Possedeva il dono particolare che hanno i santi e di cui ha parlato il soave Francesco di Sales, che consiste nel vedere tutti senza guardar nessuno. Il 3 ottobre 1839, riferisce Don Thailand di Montpellier, Don Vianney mi fece una confidenza molto importante. Gli avevo chiesto come aveva ottenuto di essere liberato dalle tentazioni contro la purità. Finì per dirmi che ciò era avvenuto in seguito ad un voto. Il voto pronunciato da 23 anni, dal tempo che era vicario di Écully, consisteva nel recitare una volta al giorno il Regina Cieli e 6 volte la preghiera: «Sia sempre benedetta la Santa ed Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio». Don Balley non era ricco. Il mantenimento di un vicario avrebbe potuto essere per lui una spesa troppo gravosa. Alcuni parrocchiani lo compresero e fornivano gratuitamente o a metà prezzo tutto ciò che occorreva per tale mantenimento. La brava gente se ne faceva un onore, un piacere ed un bisogno. Quanto al Vianney, quel che possedeva andava a finire nelle mani dei poveri, ai quali dava anche i suoi vestiti. Un giorno d'inverno, racconta Margherita, Don Balley disse a mio fratello: «Andate a Lione a fare visita alla signora tale. Bisogna che vi mettiate in ordine e indossiate i pantaloni che vi sono stati regalati». La sera se ne tornò con pantaloni assai malandati. Il parroco gli chiese che cosa ne avesse fatto degli altri. Rispose che aveva incontrato un povero intirizzito dal freddo, ne aveva avuto pietà e aveva cambiato i suoi calzoni nuovi con quelli vecchi del mendicante. «Come va Giovanni Maria?» chiedeva qualche volta Don Balley Andrea Proven, un compagno di Dardigli. «Don Vianney è sempre lo stesso», rispondeva il parroco. «Dà via tutto quello che ha». Alla scuola della santità. Quando il vicario generale Courbon designò il Vianney come vicario ad Écully, Don Balley aveva assicurato che voleva tenerlo nella sua canonica, vicino a lui, per aiutarlo a completare i suoi studi teologici. E fu così. Nei momenti liberi riaprirono il Rituel de Toulon. Il maestro poté spiegare allora in modo più pratico il dogma, la morale, la liturgia. Quando uscivano insieme, il parroco poneva al suo vicario casi di coscienza più o meno complicati. Il giovane sacerdote doveva dare la soluzione e spiegare per quali motivi sceglieva l'una o l'altra sentenza. Ma Dio non aveva mandato il Vianney a Écully solo perché si instradasse nel mistero parrocchiale. L'aveva messo in una scuola di santità. Don Balley, come abbiamo visto, era un prete di grande mortificazione. Tra lui e il suo aiutante si impegnò presto una spaventosa emulazione di austerità. C'era, al dire del canonico Pelletier, arciprete di Treffort, un santo vicino a un altro santo. Più tardi lo stesso Don Vianney farà questa confessione di toccante umiltà: «Avrei finito anch'io per essere più buono se avessi avuto la fortuna di stare sempre con Don Balley. Nessuno mi ha meglio fatto vedere a qual punto l'anima può liberarsi dai sensi e l'uomo può avvicinarsi all'angelo. Per sentirsi spinti ad amare il Signore bastava sentirlo dire: «Mio Dio, io vi amo con tutto il cuore». Don Balley portava un cilicio. Don Vianney chiese segretamente a Claudina Bibot e a sua figlia Colomba di confezionargli una maglia di crine che d'ora innanzi indosserà sulla carne. A tavola, tolto il caso della visita di qualche confratello, parroco e vicario, andavano a gara nel mortificarsi. Niente vino, un po' di patate con pane secco. A furia di riapparire sulla tavola, il pezzo di manzo bollito finiva per diventare tutto nero. Le cose peggiorarono al punto che alcuni parrocchiani si tennero in dovere di informare il vicario generale Courbon. «Siete fortunati voi», gli rispose il vicario generale, «ad avere sacerdoti che fanno penitenza per voi». Anzi, il parroco fece presente ai superiori che il suo vicario passava i limiti, e il vicario denunciò il parroco per eccesso di mortificazione. Monsignor Courbon, sorridendo, li mandò a casa entrambi. C'era però qualche eccezione nell'austerità e la tavola parrocchiale, abbastanza spesso, non era tanto severa. Quando venivano ospiti, tra essi qualche volta c'erano anche i vicari generali e Don Grobot, il menù era migliore e più vario. La visita della madre Fayot. In una di queste circostanze, nell'ottobre del 1815, si presentò nella canonica di Écouilly una contadina vestita alla foggia del Forêt. Domandava di Giovanni Maria Vianney. La domestica le fece presente che i reverendi erano a tavola e che c'era nella sala molta gente. Non importa, la madre Fayot di Noè, era lei infatti, presa dalla sua idea, non esitò a disturbare il pranzo. Entrò e squadrò i commensali, tra cui c'erano il Courbon e il Beauchamp. Avrebbe subito riconosciuto il suo caro figliolo. Don Vianney si era alzato e, acceso in volto per la gioia, vide avvicinarsi la sua buona madre, che stringendolo fra le braccia gli stampò un bacio per guancia. Paolina Jaricot e Santa Filomena. Don Balley, pur essendo un sacerdote penitente, non era affatto un misantropo o un selvaggio. A Lione aveva conservato amicizie e relazioni. Visitava di quanto in quando la famiglia Lorà. Era conosciuto da Antonio Jaricot. Quel grande industriale aveva acquistato a Tassin, vicino a Écouilly, una casa di campagna, che cedette poi alla sua figlia maggiore, divenuta col matrimonio signora Perrin. L'avvenente sorella della signora Perrin, Paolina Jaricot, che nel 1817 aveva 18 anni, veniva a Tassin per passare alcuni giorni di vacanza. Dopo aver vissuto per un po' di tempo una vita mondana, di cui non poteva sospettare i pericoli, Paolina aveva improvvisamente rinunciato ai suoi ornamenti ed era ora un modello di pietà. L'antico castello vide qualche volta riuniti con i Jaricot e il clero di Écouilly ecclesiastici molto distinti. Il futuro cardinale di Villecourt e Don Wurtz, vicario a San Nazaro di Lione e confessore di Paolina. Nelle riunioni di Tassin, per la prima volta, Don Vianney, seduto umilmente in fondo alla tavola con la giovane Paolina Jaricot, sentì parlare di una vergine martire, Santa Filomena, il cui corpo era stato scoperto da alcuni anni in una catacomba di Roma e che, si diceva, compiva molti miracoli. Ignorava allora quale posto avrebbe avuto nella sua vita e nel suo cuore quella santa immolata alle origini della Chiesa. Nell'intimità del presbiterio. Conducendo vita comune, come prescrivevano gli statuti della Chiesa di Lione, i nostri due cenobiti vivevano in una intimità senza nubi. Facevano insieme le pratiche di pietà, qualche volta andavano insieme in pellegrinaggio a Notre-Dame di Fourvière, tutti e due poveri in canna, al punto da doversi riparare sotto l'unico ombrello che c'era in canonica. D'accordo, copiavano preghiere alla Madonna, per diffonderle poi in parrocchia. Composero per sé quel rosario della Immacolata Concezione che si legge ancora oggigiorno ad Ars prima della preghiera serale. Malattia e morte di Don Balley. Passarono così il 1816 e le prime settimane del 1817. Don Balley non aveva che 65 anni, ma aveva vissuto da proscritto durante il terrore e gli anni di persecuzione contavano per due. Vecchio prima del tempo si incamminava verso l'eternità. Nel febbraio un'ulcera ad una gamba lo inchiodò a letto e non si alzò più. Da quel tempo lui, tanto attivo, pare abbia svolto in misura assai limitata il ministero parrocchiale. Nei registri del 1817 si registra soltanto un atto da lui compiuto, una sepoltura con la data del 5 giugno. Durante quel periodo sempre più doloroso, fu quasi interamente supplito dal suo devoto vicario. Quanto a lui, soffriva senza lamentarsi. L'ulcero produsse una decomposizione lenta nel sangue e la gamba malata incominciò ad andare in cancrena. I medici dichiararono che Don Ballei era condannato. Il 17 dicembre, dopo essersi confessato dal suo caro piccolo prete, dal figlio suo prediletto, dopo aver ricevuto da lui il viatico e l'estrema unzione, il venerato parroco di Ecugli, carico di meriti, si addormentava nel Signore. Amministrata l'estrema unzione e usciti i parrocchiani dalla camera, parroco e curato si trovarono soli e il morente diede al suo caro Viennei gli ultimi consigli. Si raccomandò alle sue preghiere, quindi, togliendo dal capezzale gli strumenti di penitenza, gli mormorò in un orecchio: «Tieni, figliolo, nascondili. Se scoprissero questi arnesi dopo la mia morte, crederebbero che io ho già scontato i miei peccati e mi lascerebbero in purgatorio fino alla fine del mondo». La disciplina e il cilicio di Don Ballei non rimasero inattivi. Eredità e ricordi. Don Vianney lo pianse come un padre. Gli doveva tanto, gli doveva tutto. Egli conservò un ricordo imperituro di quel santo uomo. «Ne ho visto di anime belle», diceva, «ma non più belle di questa». I lineamenti del suo vecchio maestro erano talmente scolpiti nella sua mente che anche negli ultimi anni di vita diceva: «Se fossi pittore potrei ancora fargli il ritratto». E spesso parlava di lui con le lacrime agli occhi. Ogni mattina lo nominerà al momento della messa. Egli, tanto staccato dalle cose materiali, conserverà fino alla morte sulla mensola del camino il piccolo specchio di Don Ballei, perché aveva riflesso il suo volto. Del resto, la memoria di quell'imminente sacerdote sarà venerata ad Ecugli. Don Tripier e il suo vicario. Poco dopo la sua morte, parecchi parrocchiani chiesero all'arcivescovado come parroco Don Vianney, il che prova la grande stima in cui lo tenevano. La loro richiesta non ebbe esito. È probabile che lo stesso interessato non avrebbe accettato. «Non avrei voluto essere parroco ad Ecugli», dichiara più tardi. «La parrocchia era troppo grossa». Comunque, Don Ballei fu sostituito da Don Tripier e Don Vianney rimase vicario. Don Tripier non si credette obbligato in coscienza a seguire le orme del predecessore. Non era affatto del parere di far diventare la canonica una trappa o una certosa. Presto il suo vicario gli parve esagerato, perché si rifiutava di accompagnarlo nelle visite ai confratelli o a persone agiate, col pretesto che aveva una veste sola che non era più presentabile dinanzi a persone rispettabili. Don Tripier chiese un altro curato? È possibile. Comunque l'amministrazione diocesana non tardò a occuparsi di Don Giovanni Maria Vianney. La cappellania di Ars. Dal 21 gennaio, siamo nel 1818, era rimasta vacante una piccola cappellania del dipartimento dell'Ain. Il cappellano Don Antonio de Plas, un giovane sacerdote di 27 anni, dopo un ministero di 23 giorni, vi era morto consunto. Ars era libero. Ma si trattava di un paese molto piccolo e povero, 230 abitanti appena. Vi avrebbero mandato ancora un sacerdote? Il centro parrocchiale di Miserie distava, è vero, 3 chilometri. Fu pregato Don de Croix, parroco di Savigné, di provvedere all'assistenza spirituale interinale. Ora, quella spiacevole situazione provvisoria avrebbe potuto durare a lungo se l'interessamento personale della castellana del paese, Anna de Garet, che si ostinava a considerare il suo paese come una vera parrocchia, non avesse affrettato la decisione dei vicari generali. All'inizio del febbraio, Don Giovanni Maria Battista Vianney, vicario di Ecugli, apprese che la cappella e il villaggio di Ars-en-Dombes venivano affidati al suo zelo. Il giovane sacerdote non si preoccupò di sapere se era vero o no che Monsignor Curborn mandava nelle parrocchie del dipartimento dell'Aisne, considerato dal clero della diocesi di Lione come una specie di Siberia, i soggetti che gli sembravano offrire minori garanzie. Molto semplicemente, egli si recò a far visita al vicario generale che, firmandogli il foglio di nomina, gli disse: «C'è poco amor di Dio in quella parrocchia, ce lo porterete voi». Il Vianney assicurò che non aveva altro desiderio. Il Curbon si ritrette in dovere di fargli coraggio. Gli veniva affidata una parrocchia delle più povere, quasi senza risorse. Un onorario da curato, 500 franchi, concessi annualmente dal comune. Ma la divina provvidenza non l'avrebbe abbandonato nella sua lontana parrocchia. Ars aveva il vantaggio di possedere un castello in cui c'era una buona signorina, che sarebbe stata d'aiuto per il suo parroco, e col denaro e con la sua influenza, così parlò Monsignor Curbon a quel sacerdote di 32 anni. Il 3 febbraio 1818 Don Vianney compì a Écouly l'ultimo suo atto di ministero. Il 9 mattina si mise in cammino per Ars.